Dobbiamo correre dal nostro Stefano Andreoli, l'ideatore di Spinoza.it, insieme a Alessandro Bonino. Che cosa, con quale istantanea fotograferà questa settimana? Sì. Eccetera. Buongiorno Roberta. Buongiorno a tutti. Non si può che cominciare con la tragica notizia che ha interessato la Norvegia con una nota curiosa. Il giornale, forse lo avrete già ricordato, era uscito con un titolo sulla matrice islamica dell'attentato. Beh, perché fino a ieri notte effettivamente era già andato in stampa, poi chiaramente scoprendosi una verità diversa è stato costretto a cambiare tutto quanto in corsa, diciamo così. Sallusti, poveretto, costretto a svegliarsi nel cuore del giorno per operare questa cosa, effettivamente non è suo costume. Diffuse le caratteristiche dell'attentatore: a 30 anni, è alto 1,90 m e ha denti bianchissimi. Questa è la cosa che è ha condito la cattura. Ma veniamo a notizie per fortuna un po' più leggere. Un antropologo, questa è una curiosità, rivela che Shakespeare era tossico ed adito alla cannabis e cocainomane. Probabilmente William Shakespeare non era l'unico, forse tossico, sì, fumatore, cocainomane, insomma, per lui carriera finita, pare che non si riprenderà da questa rivelazione. Ma veniamo a un'altra notizia che è sulla bocca di molte persone: decimo anniversario del G8 di Genova. Sì. Si celebra questa ricorrenza, le bottiglie le porta la polizia, come al solito. Si festeggerà così. Vi ricordate il G8? Molti non lo avranno scordato. C'era ancora Chirac, c'era ancora Blair, c'era ancora Bush e c'era già Berlusconi. Ecco, questa è la caratteristica che lo contraddistingue il nostro paese. C'è chi rimane e chi invece Si placano le polemiche sugli abusi della polizia ai tempi del G8, ricorderete la scuola Diaz, Bolzaneto, ma la magistratura non è stata con le mani in mano. Le indagini di questi anni hanno portato a pesanti promozioni. Ricordiamo che tutto bene quel che finisce bene. Chiuderei con una curiosità, della quale chiedo scusa in anticipo. Lady Gaga dichiara: la mia vagina mi parla. Ma a volte può succedere. Davvero, Lady Gaga dichiara: la mia vagina mi parla. E io mi sono chiesto, chissà quante lingue conosce. Grazie Stefano Andreoli. Ma insomma, prima chiedi, bisogna censurarlo, prima con la mannaia.